24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma. Uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio. E lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera. Per il presidenzialismo il cancellierato alla tedesca. Il problema alla Sartori. E vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese. I bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Berlusconi è uno che è riuscito a coniugare De Gasperi con il drive-in, come Renzi coniuga la pira e Topolino. Insomma, sono persone che sanno parlare alle persone del loro tempo. De Gasperi, il drive-in, la pira e Topolino. Ale, eccoci, eccoci. Questo era Alessandro Sallusti, il direttore del giornale. Berlusconi coniugava De Gasperi e chi? Il drive-in. E Renzi, la pira e Topolino. Non so. Che fa rima con Vincino, che voglio subito salutare. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Hai visto? Hai visto mai? Chissà Andreotti di fronte al tuo busto di Andreotti di fronte a questa frase che ha fatto? Stupendo, ma Andreotti ha trasecolato il busto invece alla commissione d'inchiesta sul caso Moro, ma cosa? Fatta ieri alla Camera. Mamma mia. Nascosto da Cottarelli, però, perché non... Il caso Moro. È l'unico grande caso in cui si sanno che i colpevoli mandassero di tutti condannati, sono già fuori tutti, come dire, no? Nuova vita e va bene. Sì, mentre del Piazza Fontana tutti gli altri non sapevano ancora niente. Caso... ma non vogliamo sapere niente, infatti no. Facciamo commissione di inchiesta. No, per carità. Va bene, sono le 6:34 minuti, questo è 24 mattino. Voglio salutare Miriam Lucchetti in redazione. È il nostro Alpino, che mi dicono, però di Alpino sembra un vecchio barboso, invece è un gran figo. Ma sì, certo, il nostro Peter Bescapè è bello, giovane hai tante. Alpino non vuol dire mica che è un vecchio barbuto di 75 anni con la panzotta, ecco, ma è il nostro Peter Bescapè. E allora apriamo subito il Parlamento, che insieme a Vincino il caffè. Voglio salutare il vice direttore di Panorama, Maurizio Tortorella, ben ritrovato. Siamo buongiorno qui. Alessandro, buongiorno a tutti. Mi stavo giusto domandando chi potessero essere i miei riferimenti culturali. Pensavo giustamente Alessandro Milano e Vincino. Certo, sei veramente alla frutta, insomma. Quindi, riferimento culturale Vincino, sei veramente spacciato. Un disastro. Però è bella questa cosa. Allora, in depressione questa cosa qua. Allora, mi ha colpito molto, pagina 15 del Quotidiano Nazionale, c'è una pubblicità, c'è la foto di Renzi, inequivocabilmente Renzi da bambino, tipo 6-7 anni, e c'è un'iniziativa lanciata dal Giorno, e per un renziano come Vincino questa è un'iniziativa: nascita e successo di un leader bambino, il primo libro dalla prima comunione a Palazzo Chigi. No, vi prego, no. La prima comunione, Matteo Renzi, è chiaramente la foto alla prima comunione, cioè si vede, è uguale a lui. Immaginate, Matteo Renzi ha di 8 anni. Vabbè, sei ancora. C'è la sorella assessora, no? La sorella diventa forse assessore a Castenaso in provincia di Bologna, così le hanno offerto alla scuola. Sì, è una dinastia questa qua, è una giovane dinastia che parte. E parte. Vabbè. Sei ancora renziano, caro Vincino? Sei ancora renziano? Allora, ha fatto poi un patto col diavolo, ha fatto. In che senso? Con ragioniere dello Stato, no? Ragioniere dello Stato, il quale gli fa passare tutto, lui assume il figlio a Palazzo Chigi e via. No? Vabbè, può dire tutte le cifre che vuole, tanto quello. Vabbè, ma ti chiedo, sei ancora renziano o no? Critico, ma assolutamente sì. Non è un disastro, cioè, c'è solo lui. politicamente sono scomparsi tutti, non c'è più nessuno, Grillo non c'è più nel suo partito, non c'è più nessun oppositore, dall'altra parte non c'è più nessuno, non ci sono più cavalieri, non c'è più niente, c'è il vuoto totale. C'è Renzi. Ed è un disastro questo qua. Comunque sia, noi autori di satira lavoriamo lo stesso, anche di fronte alle dittature, alle cose. Ma secondo me gli autori di satira adesso stanno vivendo, rivivranno un momento. Infatti, talmente renziani anche a Panorama, c'ho qua il numero davanti, l'illusionista, eccolo lì, l'avete preso in giro per le coperture, le famose coperture. Beh, non solo per quello, per tante cose che non tornano nei calcoli che ha fatto, nei numeri che dà, nelle cose che dice e che poi smentisce subito dopo. Devo dire che comunque siamo tra i pochi a criticare, perché obiettivamente c'è un culto della personalità che poi comincia a fare un po' impressione. Dici? Ma sì, devo dire che però insomma adesso partono anche già le critiche. All'inizio siamo gli italiani, no? C'è questo entusiasmo, no? Tre giorni. Poi adesso partono le critiche, magari al contrario, siccome sei stato troppo teneri, adesso bisogna criticare. Però vediamo, insomma, no? Sì, per carità, vediamo, ci mancherebbe altro, anche perché ha ragione Vincino, dopo non c'è molto di più dalle altre parti, e vediamo appunto, che soprattutto speriamo che ce la faccia e che abbia e che rimetta in piedi questo paese. Paese un po' disastrato. Qualche dubbio. Qualche dubbio, vabbè, invece Vincino non vive di dubbi, Vincino... Cifre, agli italiani non ce ne è mai fregato niente, le cifre, se no, come dire, rompevamo le scatole pure 30 anni fa, no? Che quando sulle cifre facevamo 40 anni fa. Invece bastava avere una bella baby pensione 40 anni fa. Apposta, via, tutti felici. Chi se ne frega? Un mio amico a 30 anni, pensionato delle ferrovie, ti giuro. 30 anni, no? A 30 anni entrò in pensione, sì, con una baby pensione. Ovviamente c'è ancora e c'è ancora con la sua baby. Stai tranquillo. Felice, fa altri 7 lavori, ha fatto dopo con la sua pensione. vedi, è che se mai interrogato con te davanti, non so, un amaro, un grappino dei conti, la tenuta, non gliene è mai importato, la tenuta, chissà la mia baby pensione, la tenuta dei conti pubblici, chissà l'Europa cosa penserà della mia baby pensione, dice, ma chi se ne fotte, basta riscuotere alla fine del mese, questo o no. Però Maurizio, no, ma che cosa rimproverate dei conti di Renzi nello specifico? È tutto molto molto molto vago, le cifre sono assolutamente ballerine, soprattutto il rapporto con l'Europa, che mi sembra estremamente ambiguo, sembra a tutti estremamente ambiguo, ma anche l'idea di eliminare gli F-35 o ridurli della metà ha un senso apparente, sicuramente piace a certa parte dell'elettorato PD, no? Ma poi mette nei guai una serie di imprese italiane, perché l'unica fabbrica italiana che produce gli F-35 in parte è a Alenia. Eccala, gli F-35 riparte. È uno dei dibattiti che riparte. Gli F-35, caro Vincino, tu non ti sei già sbizzarrito, è ripartito questo dibattito. No, mi piace di più la portaerei, quella. La portaerei. Io comprerei la portaerei. 30 anni. La Garibaldi. La Garibaldi. Quella che mandammo nel Vietnam a raccogliere i cosi, là, i profughi. Ci fu un'epoca che noi mandammo una nave a raccogliere i profughi, i boat people del Vietnam. No, questa non me la ricordo. Questi del Mediterraneo, ti giuro. Epoca tua, però, insomma, un po'. No, ma c'era quello là, c'era... Ma no, ma non era l'epoca. Ma chi c'era? Ma Maurizio, aiutaci, chi c'era? Questa non me la ricordo, te la ricordi? I boat people del Vietnam, non lo so, Vincino. Ma Vincino, guarda, io mi fido ciecamente. Se Vincino dice questa cosa, io sono sicuro che è successo. Che sembrano tutte satira, è storia d'Italia. Esatto, non è una sua vignetta, no, sono sicuro. Cerca subito. La copertina del male all'epoca. Miriam, ti prego, cerca Boat People Vietnam Garibaldi. Era la Garibaldi? Era la Garibaldi. Ed era non so quale ministro famoso del Friuli Venezia Giulia. No, Maurizio, tu hai trovato qualcosa, ne sai qualcosa. La Garibaldi ha effettivamente 30 anni. Poi se lo dice Vincino, io mi fido, cioè faccio un atto di fede, sarà successo, sicuro è successo. Vabbè Vincino, ti faccio sentire Brunetta, magari Brunetta ti fa ricordare quando è successo, no? Non lo so, vabbè. Comunque sentiamo ieri Brunetta, dopo che Renzi ce l'aveva, ha fatto tutto il discorso sull'Europa, dicendo tra l'altro il 3% effettivamente è andato anacronistico, il 3% rapporto deficit-PIL. Sentite, poi ha citato varie volte Lula, l'ex presidente del Brasile. Allora Brunetta, il Brunetta del giorno. Vede, Renzi oggi non ha detto nulla, non ha fatto chiarezza sui conti dell'Italia, non ha fatto chiarezza sulle strategie del suo governo per la crescita, per l'Europa, per le riforme. Non ha detto nulla. Le solite battute un po' stantie, già ascoltate. Il ricordo del suo incontro con Lula, sarà la terza o quarta volta che lo sento. È stato imbarazzante. Vabbè, insomma, vincito. Brunetta proprio rose. Esatto, perché poi uno della maggioranza, come Brunetta, no? Che Brunetta sta in maggioranza, come tutto Forza Italia, no? Della cosa. Però in maggioranza in che senso? E sta nella maggioranza, no? Ma no, adesso insomma, no, ma fanno le riforme insieme, la doppia maggioranza, vabbè. Lui la parte 2 della maggioranza che è uguale praticamente, non è che, perché se viene a mancare una parte poi viene all'altra, insomma, tranquillo. Anche ieri sulla commissione Moro, difatti Forza Italia era d'accordo col PD per fare sta commissione la Moro. La commissione, no? Moro. Sì, giuro, ieri sera hanno votato, ieri pomeriggio alla Camera, c'ero là davanti proprio paffi, li vedevo e li guardavo come pazzi. La commissione solo, Moro. Solo uno di 5 Stelle era contrario, ma poveretta, aveva ragione questa volta, guarda, non è che poche volte, ma insomma devo dargli ragione a loro. Oh, dice, Vincino, dà ragione al Movimento 5 Stelle, vuoi subito contrattaccare Maurizio? C'è uno che ha dato ragione al Movimento 5 Stelle, devi subito bilanciare. Sì, poi ti stupirò anch'io, do ragione alla Camusso. Ah, no, come la Camusso? Ma che succede? Mi si sta sovvertendo il mondo. Ci siamo messi d'accordo con Vincino prima di venire. No, dai ragione alla Camusso. Che sì. Cosa hai mangiato ieri sera? No, cosa... do ragione alla Camusso sulla logica dei tagli. Taglia la pubblica amministrazione in questo caso. Lei ha detto una cosa giusta ieri, cioè che sembra che ci sia... che ci sia bisogno di una revisione della qualità, ha detto, e della quantità della spesa, però mi sembra che le cose annunciate in maniera abbastanza confusa e banale, soprattutto da appunto su base di quello che diceva Cottarelli, il famoso 85.000 tagli da fare, no? Sia una riedizione di tagli lineari, quindi una cosa un po' quindi Tortorella dà ragione alla Camusso, intanto ma attenzione su questo ha ragione, pure io do ragione, pure tu la Camusso, vabbè, ma ho capito, invece invece di assumere ho 50.000 giovani bravi a twittare, a fare tic, con i computer e così, ci teniamo 80.000 sessantenni coetanei miei che poveretti sono un disastro. Rottamiamoli. Intanto attenzione, arriva la notizia: la Marina italiana nell'estate del 1979 portò in salvo 900 profughi vietnamiti sulla Vittorio Veneto e sull'Andrea Doria. Vincino ha sempre ragione, Vincino si ricorda sempre le cose, non era una sua vignetta, non era una sua capito Maurizio, 1979 Maurizio, e Vincino se lo ricorda e lui c'era, perché quando ci mancavano qua il Mediterraneo ce l'andavamo a prendere in giro in tutto il mondo. 900 profughi vietnamiti, era la Vittorio Veneto, come ci ha scritto anche un ascoltatore, in Vietnam andò la Vittorio Veneto, ma vedi che non era la Garibaldi, no, vedi che i nostri ascoltatori sono attenti. Grande Vincino, un altro punto per Vincino. Andiamo a sentire il traffico. 24 mattino. Parlamentare per pochi mesi grazie a Pannella, riscuote mensilmente una pensione di euro 2000. C'è di che essere tutti lieti per i soldi così bene spesi. Matteo Renzi, il primo presidente con i coglioni. Credo che Grillo sia il fratello maggiore di Briatore. Se non fai come dice lui, sei fuori. Faccio parte di quell'esercito silenzioso che è stato comprato con poco più di 2 euro al giorno. Renzi è un cagasotto e non saranno certamente le sottane della papessa Merkel che le salveranno il culo. Adesso ci stanno dando 85 euro al mese e sembra di risorgere. Ma voglio dire, ma ci pensate un attimo quanti soldi ci hanno portato via? dalla subentrata dall'euro, praticamente gli stipendi sono rimasti fermi e tutto è raddoppiato dalla mattina alla sera. E adesso con gli 85 euro qua cosa servono? A niente. Milan, con la finta abolizione del Senato saranno abolite anche le diarie, i rimborsi, i portaborse, eccetera. E che fine faranno i senatori a vita, presenti e futuri? Saranno i saggi dei saggi? Vorrei uscire dall'euro, vorrei proporre una moneta nuova. Lo propongo a Napolitano e a Prodi. Il fottiello è una moneta fantastica, anche per i cantanti, che potrebbero finalmente cantare. Se potessi avere un fottiello al mese, senza esagerare, sarei certo di fottare tutta la comunità. Cos'è questo? È il fottiello, caro Vincino, non so. È il fottare che non torna. È il fottare, che era una licenza poetica anche questa. Vabbè. Vabbè. Allora, Silvio Berlusconi. Ehi, fu cavaliere, hai visto Vincino? Basta, non è più neanche cavaliere. Maurizio. Un disastro, guarda, questa fine proprio sempre più, guarda, è una cosa. Mi no, dà, però attenzione, oggi il giornale scrive no. Come cani arrabbiati, come sciacalli pronti a scarnificarlo pur di non farne rimanere il ricordo. Ma c'è la soluzione, caro Maurizio Tortorella. A parte che adesso bisogna decidere se si candida Marina, Pier Silvio, Barbara, la Pascale, ho letto di tutto un po'. Di Maurizio sarete più informati? No. Ma non si sa. No. Definitivamente non. Vedremo. Io non lo so. Vedremo. No, ma io. No, la famiglia ha sempre detto Barbara Berlusconi, non lo so. Marina Berlusconi ha fatto capire più volte che non ha. Ma adesso c'è Pier Silvio che va più in pole position rispetto ad altri. Però l'ha fatto già troppi danni a Canale 5. No, ma io veramente lo risparmierei. Vincino, no. Oggi il suo bersaglio è Pier Silvio. È un disastro sovrumano. Ma per te, dimmi uno che non è un disastro. Adesso dimmi uno. Ma per te tutto è un disastro. Al vecchietto, quello bravo di Canale 5, chi è Pier Silvio? Ma ho capito. Adesso tu mi devi fare uno sforzo e mi devi dire chi è bravo in Italia. Tra tutto è economico. Io e Tortorella. Va bene. Allora, ma la soluzione è stata proposta in pagina 3 del giornale da Sergio Gaddi. Io non so chi sia, lo ammetto. Voi lo conoscete? Di Sergio Gaddi, la proposta. No. Il partito cambi nome. Si chiami, caro Vincino, caro Tortorella, indovina come si deve chiamare? Si chiami? Berlusconi, così evitiamo. Partito voto, vado a votare Berlusconi, il partito. No? Vota Berlusconi. Democrazia Cristiana, Berlusconi. Ti piace, Vincino, come idea? Insomma, forza Silvio, Berlusconi, insomma, siamo là, non è che. C'è una stronzata così normale di prima mattina. Io al giornale, quelli che fanno le prime pagine al giornale, vedi, è una cosa. Cioè ogni giorno i traditori, cose, e quelli che non fanno delle. Cioè come se fosse, non lo so, la cosa di un bollettino parrocchiale di non so quale cittadina del Lombardo Veneto. Ma no, con dei titoli. Dici, ma questo che? Ma manco la Padania, nessuna l'ha usato. Ma no, tanto, ma dai, no. Ma caro Maurizio Tortorella, sì. Salutiamo, abbracciamo i colleghi del giornale. Ci siamo giocati anche questo. Guarda, io li abbraccio i poveretti tutti, guarda. No, ma chi è che gli fa le prime pagine? Cioè cosa? Non ci credo, dai. Ma come li abbracciare? Vittorio Feltri non ci credo, quello è così assennato, no? No, Feltri no, Sallusti farà la prima pagina del giornale. Anche lui quando vado in televisione non mi pare così pazzo come quando fa i titoli. No. Ma come? Era quello di De Gasperi, La Pira, Topolino e il Travin. Però... Ma quello è fotografato, preciso, non è che. La Pira, io quando ero giovane ero proprio La Pira, La Pira era il finale storico, siamo in un finale storico, diceva. Comunque la questione è complicata. No, Maurizio, adesso un giudizio politico su Berlusconi, ma secondo te è vero come scrivono che attende solo il 10 aprile come una, cioè come una tortura, no? Questa decisione sugli arresti domiciliari, servizi sociali? Penso che chiunque di noi, sapendo che un giudice dovrà decidere della sua libertà, aspetterebbe quel giorno con grande ansia, agitazione, probabilmente con disperazione. Io no, guarda, io l'aspetterei in Crimea tranquillo, felice, con una bella villa che mi hanno regalato qui, cosa, messo là con tutto quello che ho. Ma guarda, che questa Italia non mi merita, direi assolutamente. In Crimea, in Crimea. Ma non ha il passaporto, non può andare. No, ma in Crimea non c'è bisogno del passaporto. Come no? Ma sta là con Putin tranquillo, non ha bisogno di niente, guarda, se lo prende in braccio, ah, via. E vicino è così, deve stare qua a soffrire per questa Italia che gli fanno tutte queste cattiverie. A Milano fanno le lotte in tribunale per quel processo Berlusconi, no, lo leva quello, lo voglio io, lo leva... poveretto, pure uno come Robledo è costretto a fare una cosa CSM, cioè, mi hanno rubato il processo Berlusconi. Vabbè, niente, è partito, è partito, l'ora di Vincino, è partito, mette insieme tutto. Allora no, allora vi voglio fare sentire questa, sentite il giudizio che Pippo Baudo ha dato della Dama Bianca, no? Sapete, la Dama Bianca, quella che è stata presa con 24 kg di cocaina da Caracas, e tra l'altro si è scoperto che aveva delle coperture a Caracas, evidentemente per far passare uno zaino pieno di panetti di cocaina. Come fa a passare? Si accorge, me ne accorgo anch'io senza che passi sotto la macchina, evidentemente era entrata da qualche parte protetta. Ma Pippo Baudo la vede così. Personaggi che danno degli esempi squallidi, avete letto sui giornali recentemente, una ragazza chiamata la Dama Bianca, una ragazza la quale seguiva politici all'estero, era impiegata addirittura alla regione a Roma, ebbene l'hanno beccata a Fiumicino con 25 kg di eroina, questa mignottona. Sì. Allora, no, vabbè, insomma, questa, non è l'eroina, cocaina. No, vabbè, Maurizio, questa è cocaina, ma è scemo quello, totale. Ma poi questa mignottona, ma siamo matti, ma chi? Sì, sì, delle cose personali. Maurizio, non lo so, che devi fare? Dimmi tu qualcosa. Cioè. Guarda, io, a me hanno insegnato che chiunque sia tra le manette non merita di essere né maltrattato né offeso. Bravo. Mi sembra un atteggiamento facile, voglio dire. C'era anche uno che diceva che senza peccato scagli la prima pietra, e trattavasi per l'appunto di una mignottona in quel caso, ma in quella una vera. Non mi piace questo atteggiamento di Baudo. Ma sono d'accordo. Adesso Baudo è partito così. Comunque noi ci dobbiamo fermare. Voglio ringraziare Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama che trovate in edicola, con Renzi l'illusionista, questo è il numero, questa è la copertina. Grazie anche a Vincino, e saluti ovviamente al busto marmoreo di Giulio Andreotti, che tiene esposto sempre il terrazzino di casa tua. Alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, sono le 7:18 minuti. Debosciati d'Italia. Evviva! Che facciamo oggi? Di che ci occupiamo? Ah, ci occupiamo delle città di ieri paralizzate dallo sciopero dei mezzi. Ma è ancora attuale questo metodo di protesta, lo sciopero? Beh, certo, immagino voi che siete rimasti paralizzati nel traffico, oppure dovevate prendere un mezzo di trasporto a dire no, farabutti, disgraziati. Ma è una delle cose che in Italia resiste, cambia tutto, si prova a cambiare tutto, ma lo scioperone, quello c'è sempre. Ci sarà con noi Oscar Giannino, torna, e poi avremo con noi l'onorevole Giorgio Iraudo, del responsabile del lavoro per SEL. Andremo anche a Treviso oggi con il sindaco, perché mi ha incuriosito molto questa ordinanza anti-accattoni, chiamiamola così, che c'è a Treviso, ma c'è anche a Venezia, c'è anche a Padova, per contrastare coloro che chiedono l'elemosina, nel senso per contrastare il racket e quindi stroncarlo così. Questo lo faremo alle 8:45, ora andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. In questo giovedì 20 marzo, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, Fed, meno vincoli sui tassi, questo è il titolo di apertura. Sull'Europa invece si concentra la Repubblica, Renzi all'Unione Europea, il 3% va cambiato. Il Secolo XIX, Renzi, guerra ai vincoli europei, e Avvenire, Renzi, tetto del 3% fuori dalla storia.

più vecchio, usato, forse abusato, simbolo di un paese che non cambia mai, sono certo che alcuni di voi, non so quanti, risponderebbero lo sciopero, l'Italia e lo sciopero. Ne parliamo oggi soprattutto perché ieri c'è stato lo sciopero del trasporto pubblico locale in molte città, sciopero generale, si sono viste le scene, no? Che si vedono in questi casi, persone lasciate a piedi, strade intasate di macchine, chi non sapeva, gente arrabbiata, traffico. Il giorno dopo poi la guerra delle cifre, quanti sono stati quelli che hanno aderito, insomma già questo racconto che si ripete ogni volta, sicuramente qualcosa di stantio, no? Di vecchio. Oggi Libero ha fatto un conto, siamo andati, scrive Mario Giordano, a calcolare dal 1 marzo a oggi, dal 1 gennaio scusate a oggi, al 19 marzo, a ieri, 78 giorni di sciopero nel servizio pubblico, nei trasporti pubblici locali, 78 scioperi in 78 giorni, sì alcuni poi sono stati differiti, altri sono rientrati, ma senza il sabato e la domenica da contare, sono in alcuni giorni anche più di uno sciopero ogni due giorni. È davvero questo il modo in cui si vuole cambiare l'Italia? Tra l'altro, oggi, udite udite, Messaggero, pagina 5, non è legato allo sciopero, ma è legato certamente al trasporto pubblico locale, che cosa prevede, tra le altre cose, pare la cura Cottarelli, Spending Review, aumentare le tariffe dei biglietti, in alcuni casi quasi a raddoppiarle le tariffe di autobus e treni. Certo, per società, come scrive oggi il Messaggero, società municipalizzate che si ciucciano e perdono circa 2 miliardi di euro l'anno. È questa davvero la ricetta per cambiare l'Italia, annessa a quella dello sciopero? Ne vogliamo parlare con l'onorevole Giorgio Airaudo, responsabile lavoro per SEL. Buongiorno Airaudo, ben trovato. Buongiorno a voi. Così come voglio salutare e ritrovato Oscar Giannino. Buongiorno, ben ritrovato Oscar, eccoci. Buongiorno a te e ai vostri ascoltatori. Allora, lo sciopero di ieri, come tu Oscar, come lo giudichi? Intanto hai avuto problemi, tu ti sposti? Sì, ahimè, vabbè, come tutti, come tutti, certo. Ieri era paralizzata fino a tarda serata, quindi sì, certo, li ho avuti, mi sono spostato a piedi come capita a tutti noi, poveri diavoli. 78 scioperi in 78 giorni, tra l'altro Libero si chiede, solo nel trasporto pubblico sociale, come mai non avviene, non so, nell'ambito della chimica, della metalmeccanica, del tessile, non pervenuto, invece nel trasporto pubblico questo succede, perché? Perché innanzitutto, dunque, premessa, sono 7 anni che le parti non si mettono d'accordo sul contratto, così abbiamo un giusto argomento anche a favore di chi ritiene sia legittimo scioperare, no? In realtà è legittimo scioperare, però la mia opinione è che ci sono molti paesi avanzati nei quali lo sciopero nel trasporti, ci sono alcuni servizi pubblici essenziali nei quali non è possibile bloccare il servizio come avviene invece in Italia. Ecco, io credo che sarebbe il momento di adeguarci, punto numero uno. Punto numero due, da noi sommando gli scioperi, questo era uno sciopero nazionale ieri, poi per esempio a Milano sappiamo perfettamente stiamo andando al ritmo di quasi uno sciopero a settimana, certo, tra questa o quella sigla. Ecco, e innanzitutto le norme che pure ci sono per il codice della segnalazione anticipata degli scioperi nei servizi pubblici, gli andrebbe fatto un bel giro di vite, perché non è possibile avere un giorno a settimana in cui non si può contare sui trasporti pubblici. La mia opinione resta questa, che ci sono dei servizi pubblici che non possono essere sospesi per sciopero. Si può vedere come negli altri paesi si articolano le legittime articolazioni e espressioni delle proteste sindacali, non si può bloccare una città. Oltretutto, quando poi i dati dell'efficienza sono dati dell'efficienza molto da discutere, perché a me interessa soprattutto quello, ci sono parti d'Italia, Milano è una parte come quella, perché l'ATM è in sia pur lieve attivo, e ci sono altre parti d'Italia dove invece è una voragine finanziaria di dissesto di efficienza. Non è possibile impedire alla gente di capire le differenze e di capire che bisogna da alcune parti stoppare i sussidi pubblici e cambiare la maniera in cui si offre. Però interessante, a cominciare da Roma. No, certo, è cominciare da Roma. Strata impresa di trasporto pubblico in tutta Europa. Il caso ATA che è finito anche su tutte le pagine, poi magari ne parliamo. Però tu hai posto due punti interessanti sui quali vorrei coinvolgere l'onorevole Airaudo. Il primo è quello del come dire, fare come in alcuni paesi dove in alcuni settori strategici come il trasporto pubblico locale è vietato, pur pur capendo, onorevole Raudo, tutte le discussioni, per esempio il fatto, come ha detto Oscar Giannino, che da 7 anni non si rinnovano i contratti, e questo è un elemento certamente di preoccupazione per i lavoratori, però vietare in alcuni settori strategici lo sciopero, garantire servizio pubblico, lei come la vede, Airaudo? Vabbè, intanto però partirei dalla causa di questo male. La causa è esattamente quella che ha dovuto e ha ammesso correttamente anche Giannino, cioè io trovo intollerabile che da 7 anni non ci sia un contratto, trovo intollerabile che non si trovino le soluzioni, le mediazioni, i compromessi per fare questo contratto, e contemporaneamente in questi 7 anni ne abbiamo visto tutti gli scandali legati alla società del trasporto pubblico, abbiamo visto tutti gli sprechi, abbiamo visto dal punto di vista delle politiche industriali perdere, l'Italia ha perso l'unico produttore di autobus pubblico, avendo il più vecchio parco circolante che c'è in Europa, è il più inquinante, aggiungiamoci anche questo, è il più costoso, visto che consumano di più per manutenzioni, per obsolescenza. Allora lei capisce che in un paese in cui il trasporto pubblico non ha né la soluzione per chi fa quel lavoro, peraltro come lei sa, chi sta sugli autobus, chi li guida gli autobus, fa un lavoro abbastanza impegnativo e faticoso nelle nostre città, nelle nostre grandi città, di fronte a questo, è ciò che grida lo scandalo. Lo sciopero è uno strumento di difesa, io penso che va regolamentato, in Italia è stato già regolamentato, quindi uno viene preavvisato di quando ci sono gli scioperi. Penso che sulle regolamentazioni si può sempre discutere, può trovare le più efficaci, però bisogna risolvere i problemi. No, ma preavvisare ma Giannino dice una cosa in più, cioè vietare alcuni settori, garantire il servizio. Sono due cose diverse. Vietare è una cosa diversa dal garantire. Garantire che vuol dire che ci sia ieri, per esempio, il minimo dei servizi, vietare uno sciopero, lei capisce no, che no, è no, cosa, vietare uno sciopero, non so, Oscar. Quindi, le parole hanno un sì, ma sono sicuro che Oscar Giannino. No, ma è chiaro. Il sciopero l'ha cancellato. Il problema, difatti, non è legato all'etimologia della parola, è proprio dare significato preciso. Sì, però io penso dire, che la regolamentazione sia necessaria, e questo su quella strada noi ci siamo. Però insisto, noi non possiamo discutere degli effetti, dobbiamo rimuovere le cause, dobbiamo risolvere le cause. Tra le cose che vanno cambiate, questo tema dei trasporti pubblici rispetto a come è organizzato in questo paese, a quanto spendiamo per il trasporto pubblico, a quale trasporto pubblico ci serve, a come lavorano le persone nel trasporto pubblico. Perché non è che lo sciopero se lo inventano. Sì, però scusi, Airaudo, gli operai che scioperano e chiudono una fabbrica fanno un danno anche, se vuole, a se stessi, al lavoro, alla fabbrica stessa. I dipendenti del trasporto pubblico che scioperano fanno un danno a loro, ma fanno anche un danno a una collettività, cioè, che viene tirata in ballo in maniera, come dire, inerme. Ma lei ha assolutamente ragione, è ovvio che c'è anche questo effetto e c'è il generare un disagio, ma al punto che io credo che quei problemi andrebbero risolti prima. Lei capisce che è intollerabile davvero che per 7 anni un contratto non si rinnovi. Sì. Ma su questo certamente. Cioè, quali sono le ragioni? E non penso che l'opinione pubblica sia informata di quali sono le fondamentali ragioni. Su questo senza dubbio è così. Non si firmano i contratti. No, ma senza dubbio è così. Su questo, Oscar Giannino, c'è il rischio di prendersela con quelli che fisicamente sono gli obiettivi della rabbia della gente, che magari trova come ieri i pochi autobus che circolano, prendersela con quelle persone, e dice Airaudo si dimentica che queste persone lavorano da 7 anni senza rinnovo del contratto e in situazioni disagevoli. È un discorso che ti trova d'accordo? Ma io non è che me la prendo, ci mancherebbe altro, mai generalizzare con i dipendenti la questione. Andiamo al nocciolo della questione, chiedendoci come mai da 7 anni non si rinnova il contratto. Perché ci sono enormi problemi di inefficienza nel settore, e risolverli credendo di chiedere ulteriori adeguamenti salariali, che capisco nel mondo dei pubblici dipendenti nelle qualifiche basse che abbiamo bloccato, però non è il punto fondamentale. Le aziende pubbliche di trasporto locale sono gravate da un deficit sistemico, 1, 2. Malgrado la quota praticamente più elevata in Europa di sussidi pubblici rispetto alla percentuale bassissima di risorse che ricavano dall'offerta del loro servizio, poi c'è chi è molto più bravo, ma in media è la più bassa in Europa, il deficit si è aggravato. 3. Non è possibile immaginare un contratto nazionale diverso dalla parte normativa per la quale diamo ad aziende che sono in condizioni totalmente diverse, chi è in leva attivo come ATM, chi perde centinaia di milioni, malgrado miliardi di sussidi come l'ATAC, gli stessi tipi di regolazione di cose che riguardano i premi, le ferie e così via. Ieri chi rappresenta le aziende di settore del pubblico trasporto ha fatto presente che ci sono dei casi nei quali, aziende nelle quali si arriva a una media di 90 giorni di assenza l'anno nella prestazione del lavoro, sommando una voce e l'altra. Quello che dico io è che bisognerebbe capire che in alcuni settori, il trasporto pubblico locale è questo, il contratto nazionale deve avere la parte normativa e diritti uguali per tutti, ma poi ci vogliono contratti diversi, caso per caso, perché altrimenti disastri come l'ATAC sono diffusissimi. Ricordiamo quello che è successo a Genova. Come spintonato il sindaco, assolutamente. Però scusa Oscar, bisogna rimettere i costi comparati, i sussidi comparati, la quota di risorse che ogni azienda deve darsi come piano industriale di recuperare dall'offerta dei servizi gestiti in maniera efficiente al centro dei contratti azienda per azienda. Rompiamolo il contratto nazionale come unico punto di riferimento con aziende che pesano in maniera così pesantissima. Però a questi buchi la domanda è perché debba pagare alla fine il ferro tranviere che ti dice un contratto è una forma tra due parti di organizzazioni dei diritti e dei doveri, mica io sto dicendo licenziamoli in massa, io sto dicendo che vanno coinvolti e deve essere lo strumento attraverso il quale loro stessi, trattando in azienda loro, i dipendenti, chi sta sotto rischia di pagare il prezzo, deve assicurarsi del fatto che ci siano dei piani industriali di gestione che non siano fatti per mettere i soldi nelle tasche dei dirigenti messi lì dai partiti, come capita a Roma, a Napoli. È chiaro. Quindi il sindacato aziendale nel trasporto pubblico locale, se fa del contratto una forma di controgaranzia degli obiettivi che i manager devono perseguire per avere conti più efficienti, garantiscono a se stessi il fatto non solo di poter andare a testa alta di fronte al passeggero invece che beccare gli insulti, ma soprattutto di dire: cari signori, non la fate pagare a noi. Allora, vediamo dopo la pubblicità, però rientriamo da Giorgio Airaudo a capire se il sindacato può avere anche questo ruolo. Lei, onorevole, che viene da una lunga militanza nel sindacato della FIOM, tra poco state con noi. 24 mattino. Siamo qui alle 8:37 minuti. Allora parliamo di sciopero, di ieri, di sciopero nel trasporto pubblico locale. Siamo con Oscar Giannino e con l'onorevole Giorgio Airaudo di SEL. Qualche messaggio poi anche gli ascoltatori, poi voglio che però Airaudo risponda a quello che dice Giannino. Ci scrive un tranviere: Sergio, trovo intollerabile che a 60 anni debba alzarmi alle 3 del mattino e andare a dormire alle 3 di notte. Provate a farlo voi. Però soprattutto devo dire, Airaudo, sono molte le critiche a chi dice, per esempio, ma scusi, io cosa c'entra? È colpa mia se da 7 anni non si mettono d'accordo? Oppure chi dice basterebbe proibire gli scioperi al venerdì, al lunedì, facendo meno weekend lunghi si sciopererebbe di meno. Casualmente, spesso il venerdì viene messo, diciamo la verità. Comunque, il ruolo del sindacato, che diceva prima Oscar Giannino, lei lo riconosce? Dovrebbe fare questo sforzo il sindacato, essere un po' più propositivo? Guardi, è stato fatto lo sforzo, perché la contrattazione aziendale esiste già nel contratto dei trasporti, c'è la contrattazione con le singole aziende, addirittura le fasce di garanzia e i tempi di preavviso dello sciopero vengono discussi nella contrattazione aziendale. Per esempio nella mia città, Torino, la fascia di garanzia ieri era dalle 12 alle 15, in cui bisogna garantire il servizio, e questo viene contrattato con le aziende in base ai flussi sulle linee, in base al tipo di trasporto pubblico e quelle che sono le linee essenziali. Addirittura vengono negoziate nella contrattazione aziendale le condizioni per comandare i lavoratori. Però mi scusi, mi faccia ribaltare la domanda, secondo lei il sindacato, come diceva prima Oscar Giannino, di fronte a queste gestioni come quel caso l'ATAC è forse la più clamorosa, può andare a testa alta e dire noi non siamo per nulla responsabili di queste gestioni, quindi cari utenti, non prendete con noi ma con la politica. Sappiamo benissimo che in alcuni casi ci sono stati anche delle singole responsabilità, però spesso i sindacati svolgono nella contrattazione aziendale proprio il tentativo di pretendere dall'azienda un'organizzazione e servizio che consenta la miglior condizione di lavoro per i propri rappresentanti, che poi spesso sono autisti, sono persone dei servizi logistici, delle imprese dei trasporti, sono persone che fanno la manutenzione a quei trasporti e che fanno viaggiare quegli autobus appiccicandoli col fil di ferro in alcuni casi, non so se è chiaro, cannibalizzando vecchi mezzi per farne funzionare altri 3 o 4, perché questa è la storia di questi anni. In condizioni di lavoro durissime, il tranvere che vi ha scritto vi ha fatto un esempio, ma ce ne sono altre, perché poi un conto è il personale viaggiante, un conto è il personale amministrativo, sì, anche sì. Nelle aziende di trasporti. È chiaro, su questo sono sì. Condizioni di lavoro anche durissime in alcuni casi, e come è noto i trasporti pubblici girano anche nei giorni festivi, perché sono garantiti da quei lavoratori. Sì, ma certamente sì. Vogliamo sentire però anche due ascoltatori, così sentiamo anche il polso dei cittadini. Caterina, dalla provincia di Como, buongiorno. Ci sente Caterina? No, è caduta la linea. Andrea da Roma. Andrea, niente. Buongiorno a tutti. Senta, io diciamo, essendo di Roma, conosco un po' bene la situazione e volevo fare una domanda specialmente all'onorevole Airaudo. E volevo che si facessero parte dirigente, perché secondo me la sinistra ha una responsabilità, anche come sindacato, ad aver coperto una massa di lavoratori che sono stati messi lì per questioni, diciamo, politiche, che non fanno nulla. Allora, posto che gli autisti, è vero, lavorano, hanno un turno più corto, perché hanno un turno di 6 ore e 40, chiaramente, perché è un lavoro più faticoso, togliamo delle persone dagli uffici che non fanno nulla e facciamoli diventare autisti. Vedrete che le cose miglioreranno. Dice, in questo c'è la responsabilità del sindacato. Potrà dare pure 100 euro di più a questi. I sindacati, da che mondo è mondo, io ho quasi 47 anni, non hanno mai fatto niente nei confronti delle persone nel pubblico che non fanno nulla. E ci sono, lo sappiamo tutti. Sì, ma lo guardi, lo stesso... Ci sono delle persone che sono persone fantastiche e che trainano la carretta. Questo lo sappiamo tutti, no, ma è chiaro. In un ufficio pubblico vediamo l'impiegato che si fa in quattro e viene guardato pure e lavora certo anche per gli altri tre, ma guardi, non è che deve darle una risposta a Airaudo, qualcosa ha già detto dicendo che ci sono state responsabilità singole. La vorrò chiedere a Oscar Giannino, ma tra un attimo, dopo che abbiamo recuperato Caterina. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica Caterina. Senta, io sono furibonda con il pubblico. Beh, addirittura. E soprattutto con gli scioperi. Perché sono persone nel pubblico che lavorano 6 ore al giorno e hanno difficoltà a mettere una crocina dove bisogna fare una firma. È una vergogna, io mi urto tutte le volte che vado in un posto pubblico. Dai, proprio vede, posto pubblico uguale, no. Ecco, allora. E soprattutto però c'è la vigliaccheria anche delle persone che ascoltano quello che magari una persona dice, un reclamo che fa, e stanno zitti. Davanti al pubblico stanno zitti, insomma, dicono mezza parola. Il suo rapporto con la pubblica amministrazione mi sembra devastante. Cara Caterina, la ringrazio. Oscar Giannino, insomma, ti ha convinto la risposta di Airaudo e l'ascoltatore che dice mettiamo le persone a fare gli autisti, i sindacati in questo sono stati anche complici, tu cosa dici? Che conosco e stimo Airaudo, spesso lo invito in trasmissione, quindi non è questo il punto. La fascia di garanzia è contrattata aziendalmente? Sì, la risposta è che una fascia di garanzia di 3 ore, ieri a Milano era 15-18, nel pomeriggio non impedisce di bloccare la città, quindi ci vuole una riflessione e ampliarle, questa la garanzia dell'offerta del servizio. Ha capito perfettamente Airaudo, non sono per vietare lo sciopero, è incostituzionale, ci mancherebbe. Il problema è che alcuni settori del servizio pubblico il servizio va garantito, rispettando il diritto dello sciopero. Poi veniamo all'ATAC, che è un caso eclatante, ma ce ne sono tanti altri. Allora, sull'ATAC l'informazione sta tentando da un anno e mezzo a questa parte di fare ciò che il pubblico non ci mette in grado di fare, dandoci dei numeri trasparenti. Faccio solo due esempi. Grazie alle pressioni che abbiamo esercitato siamo riusciti a capire che ogni mese in media l'ATAC annulla 100.000 corse, cioè si tratta di 3.000 corse al giorno, per il 63% del quale dei casi non è in grado di dire perché avviene. La scorsa settimana il giornale d'inchiesta ha finanziato una ricerca di 4 ricercatori che si sono messi per 4 linee pubbliche di trasporto a Roma a vedere qual è la devianza media giornaliera del minutaggio previsto per il percorso della linea. Nel 27% dei casi le cose non quadravano assolutamente e prescindevano dai flussi di traffico in corso nella città. Il numero di dipendenti, 12.800, che non ha uguale in tutta Europa, non ha riscontro rispetto all'offerta di servizio e alla sua produttività. Qual è la risposta che si sono dati di fronte a queste 3.000 corse cancellate al giorno? L'assessore ai trasporti della giunta di Ignazio Marino è stata quella di dire che è in atto una vergogna vergognosa campagna che infanga i lavoratori dell'ATAC, mentre io ce l'ho con i dirigenti dell'ATAC, e dice che tutti i problemi derivano dal fatto che l'ATAC, siccome offre servizi a un'area metropolitana, la regione deve sganciare più soldi. La risposta è no, no e poi no, perché all'ATAC i contribuenti italiani hanno dato in 5 anni 1,6 miliardi, eppure continuano a perdere 700 milioni, eppure da 3 anni è in corso un'indagine della Procura sul fatto che i dirigenti responsabili della bigliettazione hanno organizzato stampa di doppie cifre false di biglietti con cui creano moneta. Però Oscar, Cottarelli infatti dice i soldi non li do, ma forse, scrive il Messaggero, giornale che conosci bene, collabora il Messaggero, potrebbero aumentare le tariffe anche raddoppiare. Alla fine, voglio dire, è facile così, è facile. La doppia cosa per i contribuenti inaccettabile, cioè che di fronte a un'offerta di servizi così inefficiente, dispendiosa e inaccettabile dal punto di vista della qualità, alla fine è molto facile dire tanto paga Pantalone e gli alziamo le tariffe. Il problema è che bisogna cambiare il principio organizzativo. Secondo me il sindacato, oltre agli strumenti già attuali della contrattazione aziendale, dovrebbe mettere la qualità dell'offerta al centro della sua battaglia azienda per azienda, perché ripeto le situazioni sono molto diverse in Italia. Se noi sommiamo ai 5 miliardi che Cottarelli documenta di sussidi al trasporto pubblico locale che riguardano le municipalizzate, la media di 5-6 miliardi l'anno che diamo a Ferrovie per la stessa ragione, siamo a oltre 10 miliardi di euro l'anno per avere questo servizio, perché riguarda anche il trasporto pubblico locale, regionale, no? Ecco, non è possibile questa roba, è impossibile credere che si risolva semplicemente dicendo diamo un po' di aumenti a chi ci lavora dentro, perché bisogna cambiare il principio organizzativo e rendere tutti responsabili di questo, altrimenti l'effetto sarà che aumenteremo le tariffe e alla fine un po' dei dipendenti andranno a casa. Però certamente i dirigenti quando cambia il colore politico della giunta questo fa. Allora, dopodiché come dire, ci riaggiorniamo al prossimo sciopero, posso dire. No, io nel ringraziare Oscar Giannino, che ricordo alle 16:30 oggi ovviamente qui a Radio 24, ringrazio Oscar Giannino e Giorgio Airo Raudo, onorevole e responsabile del lavoro per SEL. Devo andare alle informazioni sul traffico, poi ci concentreremo con un sindaco che è già nostro, già collegato, e voglio già salutare, Giovanni Manildo, sindaco di Treviso del Partito Democratico. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, tra un attimo sono da lei perché ci vogliamo concentrare su quella che è stata definita la crociata, con questi termini certamente anche enfatici sui giornali, la crociata dei sindaci di sinistra in Veneto, lei a Treviso ma anche a Padova e Venezia, contro chi chiede la questua, contro i mendicanti. Allora, eccoci qua con il sindaco di Treviso, appunto, Giovanni Manildo, per capire, sindaco, intanto non è una crociata contro gli accattoni. Assolutamente, non è nessuna crociata, anzi parte dall'idea che dobbiamo discriminare, differenziare le situazioni di reale bisogno da situazioni legate al racket di accattoni professionisti, quindi proprio non è una crociata contro gli accattoni, non è che ci sono fogli di via per tutti gli accattoni. Nasce dall'esigenza di un coordinamento tra Treviso, Padova, Venezia, adesso si allargherà a Vicenza, perché il fenomeno sta prendendo infatti mi colpisce il fatto che tra sindaci, in questo caso anche Vicenza, quindi sarebbe il quarto sindaco del Veneto, vi trovate la necessità di fare proprio che cosa? Un'azione congiunta contro gli accattoni, come dire, quelli aggressivi, possiamo definirli così? No, di quelli legati al racket, quindi quelli che utilizzano i treni per spostarsi, sono dei pendolari, sono identificati a Treviso, sono un numero determinato, a Venezia anche, a Padova anche. Nasce la necessità di mettere in rete le banche dati sia degli assessorati al sociale che degli assessorati alla sicurezza, infatti è una questione che affrontiamo sia con gli assessori alla sicurezza che gli assessori al sociale, perché ci rendiamo conto che il fenomeno va contrastato non soltanto nel piccolo del nostro comune, ma in una scala più larga, e anzi penso che sia necessario affrontarlo anche a livello nazionale con delle norme sul tipo di quelle di... Però mi faccia capire, perché mi sembra lei ha detto le multe per esempio fatte in passato dai sindaci leghisti non hanno portato a nulla, perché le multe poi non vengono pagate, no? Molto banalmente uno fa una multa e poi... Ma non è neppure una questione del ritorno economico della multa, è una questione che se ci sono dei soggetti legati al racket che vengono 70-80 volte... sicuramente la sanzione pecuniaria non ha deterretto. Allora cosa potrebbe servire? Il foglio di via, lei dice, però possono tornare? Un foglio di allontanamento, ed è per indeterminate caratteristiche, è già stato irrogato. Padova l'ha già fatto per due persone, Vicenza l'aveva già fatto, con il foglio di allontanamento queste persone vengono allontanate, ma il nostro vero obiettivo è quello di cercare di smantellare questa vera e propria organizzazione che sfrutta queste persone. Questo sì, però quello non sarebbe un lavoro, voglio dire, di polizia, cioè è sacrosanto sfruttare, cioè cercare di contrastare chi sfrutta l'umanità, chi sfrutta persone per chiedere soldi. Però mi faccia capire, cioè, l'idea è di arrivare a un'ipotesi di foglio di via, che però uno va via da Treviso, cosa fa? Viene, non so, si sposta un po' più a ovest, viene a Milano, va a sud, va a Bologna. Non è quello, infatti adesso l'unica norma che può essere utilizzata è quella del decreto legislativo 30 del 2007 che prevede il foglio di allontanamento al di fuori dei confini nazionali, questa è l'unica norma. Noi ci rendiamo conto che gli strumenti sono pochi, quindi intanto facciamo rete tra di noi, poi sarà necessario assolutamente incominciare a intervenire a livello nazionale, perché la nostra intenzione è quella di discriminare le situazioni di reale bisogno, non è che una guerra, mi fa sorridere il termine, sì, crociata contro, no, gli ma è chiaro, ma è chiaro, ma i titoli dei giornali sono quelli, però il dibattito è nato anche a dire, ma come, tre sindaci di sinistra, allora è di sinistra il provvedimento, in questo caso anche variati sarebbe, è di sinistra questo tipo di provvedimento? Ma io penso che di sinistra sia garantire la parità di opportunità e la legalità sia, almeno per come la vedo io, sia una questione che cerca di tutelare i più deboli. E i più deboli sono a loro volta vittime del racket, anche quelli che hanno situazioni di reale bisogno. Quindi io penso che discriminare le situazioni di reale bisogno, di quelle legate a fenomeni di malavita, sia un'operazione assolutamente di buon senso, anche un'operazione di sinistra. Io ho letto che tra le dichiarazioni voi avete detto con i sindaci abbiamo bisogno di fare questa banca dati, no? Per riconoscere, certo, subito un mendicante che fa parte del racket, però sa molto ovviamente di schedatura, evidentemente, perché vuol dire schedare le persone. Ma allora c'è sempre, allora ogni azione può avere un'accezione positiva, un'accezione negativa. Il fatto di conoscere, identificare le persone che hanno reale bisogno da quelle che invece sono legate al professionismo dell'accattonaggio, penso che sia una questione molto seria e molto utile. Poi se si vuole dare un'accezione colorandola di più sul termine negativo, sicuramente si può fare, però io penso che la conoscenza sia l'unico modo per poter differenziare e avere delle azioni serie, perché è un fenomeno che va preso adesso, per Treviso è sul nascere, ma a Venezia e a Padova ha dimensioni molto più serie, quindi ho visto veramente di buon occhio il fatto che ci coordiniamo in tanti tre sindaci di Padova, Venezia e Treviso, adesso anche con quello di Vicenza, ma lo stesso di Verona, Tosi, al di là del colore politico, ha detto anch'io, anzi, sono stato un apripista, il sindaco di Trieste si sta... Ma infatti sa, queste battaglie in genere si dice vengono legate più, non so, alla Lega. Lei tra l'altro è sindaco di un comune e ha espugnato, si può dire, un sindaco che era un feudo leghista. Sappiamo anche prima con Gentilini, poi con Gobbo, due persone anche molto, come dire, che non avevano peli sulla lingua quando si trattava di affrontare questo tipo di tematiche. Lei non ha paura di essere in qualche modo incanalato un po' nella stessa direzione anche dai suoi esponenti, da coloro che l'hanno votata? No, penso che sia importante cercare che non siano misure di bandiera o misure che siano punitive verso determinate persone o siano alimentate da sentimenti di fare qualcosa contro. Queste azioni, come ripeto, sono necessarie per discriminare veramente situazioni di reale bisogno. Noi a Treviso ne stiamo affrontando tante, per quello abbiamo allineato nel gruppo di lavoro non soltanto gli assessori alla sicurezza ma anche gli assessori al sociale, mm-hmm, per far fronte in modo sempre più utile ed efficace a queste situazioni di nuova povertà che stanno crescendo anche nei nostri territori. Cioè, perché chiedere, per concludere, chiedere l'elemosina non è di per sé una cosa disdicevole, secondo lei? Ma penso che purtroppo ci sono delle persone che sono ridotte a doverlo fare, e quindi è una questione di magari farebbero volentieri a meno di farlo, e sono delle persone che stiamo seguendo con i nostri servizi sociali, e questo serve anche conoscere le situazioni per poterle affrontare nel modo migliore possibile. E penso che sia necessario arrivare a un grado analitico di conoscenza sempre maggiore, quindi la differenziazione tra le varie situazioni è necessaria per farla in modo serio è necessario un coordinamento, non posso farlo solo io di Treviso, è bene farlo in modo allineato intanto Padova, Venezia e Treviso, mm-hmm. ma anche Vicenza, no, e anche Verona, sindaco Variati. Diciamo sindaco Variati l'abbiamo già sentito, sentirò anche Tosi, ma penso che sia una cosa buona. Va bene, io intanto la ringrazio per essere stato con noi, il sindaco di Treviso Giovanni Manildo del Partito Democratico, per quella che è stata definita certamente con enfasi la crociata dei sindaci di sinistra. Ci fermiamo qui, grazie a Miriam Lucchetti, Alessandro Marcotulli, Elisabetta Fusconi in redazione, il nostro Peter Vescapè in regia. Puntatevi il numero della segreteria telefonica per lasciarci tutti i vostri messaggi. Arriva e noi ci sentiamo domani alle 7:30. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta.